Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Radio 24 Reportage. Covid e contagi, guida ai numeri. Quali contano davvero? Di Alessandro Arona. Curve, grafici, numeri. La pandemia ci ha costretto a fare i conti in tutti i sensi. E il dubbio e la contraddizione sono dietro l'angolo. Così il nostro viaggio di oggi non ci porta tra strade e piazze, ma tra tabelle e formule, come in un labirinto in cui cercare l'uscita. E come in tutti i viaggi abbiamo chiesto ad alcune guide di accompagnarci. L'epidemiologa Flavia Riccardo dell'Istituto Superiore di Sanità e il ricercatore di politica internazionale Matteo Villa dell'ISPI. Prima tappa del viaggio, come si misura un'epidemia? La dottoressa Flavia Riccardo. In epidemiologia in genere noi ci concentriamo su tre elementi nella valutazione di un'epidemia: il tempo, il luogo e le persone. Quindi andiamo a capire come cambiano i casi nel tempo, nello spazio, quindi se ci sono delle aree più affette di altre, e poi come cambia la popolazione che contrae l'infezione, perché questo anche influenza l'andamento dell'epidemia. Un trucco per valutare l'andamento dell'epidemia nel tempo è quello di valutarlo con dei periodi. Generalmente usiamo delle settimane, vediamo l'andamento di settimana in settimana. Dunque, nella prima tappa del nostro viaggio abbiamo imparato a non dare troppo peso ai dati del singolo giorno. Meglio usare i dati settimanali o la media mobile degli ultimi 7 giorni, un dato che troviamo ad esempio sull'Hub 24 Covid. I nuovi casi in media mobile per tutti i paesi del mondo e per le singole regioni italiane. Sul sito indipendente Our World in Data, il nostro mondo in dati, vediamo interessanti grafici costruiti proprio sulle medie mobili settimanali, che ci danno l'andamento della curva dei contagi, new cases, non con i soliti alti e bassi da grafico di borsa, ma con andamento più fluido e dunque più comprensibile. Tranquilli, se vi siete già persi per strada, sul sito di Radio 24, nella pagina del reportage del 24 ottobre, troverete i link ai siti che stiamo citando. Dunque, i dati vanno presi su base almeno settimanale, ma andiamo alla seconda tappa del nostro viaggio. Per capire come sta andando l'epidemia, la cosa più importante è osservare la curva dei contagi, e cioè i nuovi casi nel tempo, meglio, come si diceva, se in media mobile settimanale. Flavia Riccardo dell'ISS. Non abbiamo le risorse per fare il test a tutte le persone del mondo ciascun un giorno e sapere esattamente quante persone sono positive. Quindi quello che noi guardiamo è il dato di tendenza, perché all'interno della stessa regione, all'interno dello stesso paese, l'evoluzione nel tempo dei casi raccolti secondo temi che sono sostanzialmente simili a se stessi, possono cambiare un pochino, come è cambiato in Italia l'accertamento diagnostico e nel resto del mondo, ma sostanzialmente simili a se stessi, il dato di tendenza ci dà informazioni. La terza tappa del nostro viaggio tra i numeri del Covid ci porta nel mondo dei tamponi. Il numero dei nuovi positivi al giorno dipende anche da quanti tamponi si fanno. A marzo ne facevamo in Italia 30.000 al giorno, ora siamo oltre 160.000. L'aumento dell'accertamento diagnostico è un fattore molto positivo, rientra in una strategia globale. Noi sappiamo che questa patologia purtroppo si trasmette bene anche prima di sviluppare i sintomi. Sappiamo che c'è un'importanza di cercare anche persone che non hanno una sintomatologia chiara. Diciamo che è vero, influenza il numero di casi, ne vediamo di più, ma questo è un fatto positivo perché ci permette di prepararci e di reagire prima di trovarci di fronte a una situazione di circolazione molto più diffusa in cui vediamo a quel punto l'aumento dei casi. Alcuni grandi paesi fanno comunque più tamponi di noi. Matteo Villa dell'ISPI. Ma devo dire che molti paesi ne fanno di più rispetto a noi, soprattutto se confrontiamo il numero di tamponi, diciamo, per il numero di abitanti del paese, che è quella poi la cosa che ci interessa di più. Sì. La Germania, la Francia, ma anche la Spagna fanno tutti più di noi. È vero che comunque noi abbiamo decuplicato, quindi più di 10 volte sin dall'inizio dell'epidemia, la nostra capacità di fare tamponi, ma altri paesi sono partiti più avanti di noi e sono andati più avanti di noi. La diversa capacità di fare tamponi nei diversi paesi condiziona anche i dati sui nuovi casi. Ancora Matteo Villa. Molto spesso guardiamo sempre a questo numero di nuovi casi giornalieri, che è quello che insomma viene divulgato di più ed è anche il meno facile da confrontare, perché ormai avrete visto tutti che ci sono diverse politiche di test e anche diverse capacità di fare tamponi in ciascun paese. Di fatto quella misura non ci dice molto. Forse invece io il consiglio che dai a tutti è, ovviamente, intanto si può guardare al numero di decessi al giorno, perché quello non cambia quasi mai. Diciamo che sono difficile, è difficile ormai trovare, diciamo, dei decessi Covid sepolti. D'altra parte però il numero di decessi è un po' un problema, perché arriva con 2 settimane di ritardo, lo sappiamo, rispetto all'avanzata dell'epidemia. E forse il numero più importante da guardare invece è il rapporto tra nuovi casi e tamponi effettuati, che ci dà un'indicazione almeno, diciamo, di tendenza di dove sta andando l'epidemia. Tanto per darvi un'idea, l'Italia, quando stava bene a luglio, agosto, faceva più o meno ogni 100 tamponi trovava 2 positivi. Oggi più o meno ogni 100 tamponi troviamo 8, 9, 10 positivi. Il rapporto tra positivi e tamponi, positive rate, è dunque la quarta tappa del nostro viaggio. La percentuale si può trovare in mappe e numeri con medie mobili a 7 giorni sul sito Our World in Data. Ma siamo arrivati alla quinta tappa, la popolazione. Nel confrontare regioni o paesi diversi, i dati vanno sempre rapportati alla popolazione. Non ha molto senso, ad esempio, confrontare i casi di Lombardia e Veneto, perché la prima ha il doppio degli abitanti. Sul Lab 24 possiamo trovare i nuovi casi per abitanti e i morti per abitanti in tutte le province italiane e in tutti i paesi del mondo. Su Our World in Data tutti i principali indicatori sono forniti per milione di abitanti. L'agenzia europea ECDC infine fornisce i nuovi casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni. La sesta tappa importante, lo sappiamo, è quella dei ricoveri, il numero cioè di nuovi ricoveri giornalieri in ospedale e in terapia intensiva, e i ricoverati totali attuali. Non esistono però siti che forniscano dati sulla capienza dei sistemi ospedalieri. Per l'Italia va letto il report che ogni settimana l'Istituto Superiore di Sanità pubblica sul suo sito, con informazioni sul livello di emergenza nella rete ospedaliera nelle diverse regioni. Ma torniamo ad analizzare l'andamento dell'epidemia. Matteo Villa. A marzo in tutta Europa l'epidemia si è diffusa a una velocità che era del tutto incontrollabile, cioè noi avevamo tempi di raddoppio, che vuol dire semplicemente che non solo il numero di nuovi casi, ma proprio il numero di nuovi morti raddoppiava ogni 2-3 giorni. A un certo punto siamo arrivati, per esempio in Italia, vi ricorderete, a 1.000 morti al giorno. Ecco. Uh-huh. Invece da noi, in questo momento, a ottobre, abbiamo tempi di raddoppio che sono sugli 8-9 giorni, cioè 3 volte meno che nella prima ondata. Detto questo, ovviamente se ci è voluto un lockdown per evitare che, diciamo, per rallentare i raddoppi e poi tornare indietro con il numero di morti, in questa progressione in questo momento non ce lo possiamo permettere. Quindi la domanda è: che cosa fare di più per evitare che comunque l'epidemia ogni 9 giorni raddoppi anche in Europa? Quindi sì, molto più lenta, 3 volte più lenta, ma comunque si va verso raddoppi costanti, a meno che non ci siano nuove politiche messe in campo. Il nostro viaggio nei numeri finisce qua, ma facciamo un passo oltre e chiediamoci se si può fermare la curva dei contagi senza ricorrere al lockdown. La dottoressa Flavia Riccardo dell'ISS. Noi siamo riusciti già a cambiare il decorso di questa curva. L'abbiamo fatto però con una misura estremamente forte, che ha degli impatti importantissimi dal punto di vista economico, sociale. E quindi vorremmo cercare a questo punto di cambiare l'andamento della curva senza dover ricorrere di nuovo a una misura così forte. È anche molto importante in questa fase che tutti siamo consapevoli che l'Italia è entrata nuovamente in una fase acuta epidemica. Evitare situazioni di rischio, situazioni in cui possiamo avere aggregazione con persone che non fanno parte già del nostro nucleo familiare con cui noi già viviamo. Tutti questi comportamenti alla fine sono quelli che fanno la differenza. Qualcosa può forse suggerirci l'Asia orientale, che ha dati sul contagio incredibilmente bassi. Matteo Villa. Allora, intanto lascerei da parte i dati cinesi, perché ci sono seguite anche nel tempo diverse notizie del fatto che si nascondevano i morti, pare dappertutto. La realtà è che non lo sappiamo, però sì, invece sono molto affidabili i dati della Corea del Sud e i dati giapponesi, e lì si vede una curva epidemica che non è salita molto né all'inizio, diciamo, dell'epidemia tra febbraio e marzo, né adesso. Perché? Intanto perché lì c'è una tradizione di mascherine dappertutto e bassi contatti, anche insomma ci si tocca poco. E questo, devo dire, sembra proprio aiutare parecchio. Non è soltanto la mascherina, ma l'intero comportamento che dobbiamo imparare a cambiare per evitare di diffondere il contagio. Seconda cosa, ovviamente, l'esperienza progressa con le malattie infettive. L'Asia è già più preparata nel test and trace, no? Quindi nel testare e tracciare i contatti. E quindi se l'epidemia è già contenuta dal fatto che ci si comporta meglio, poi è più facile trovare i focolai e ritrovare tutti i contatti. Abbiamo visto che di fatto, se invece l'epidemia non è contenuta, anche il tracciamento anche dei paesi più bravi si perde. Bisogna contenere l'epidemia con le misure individuali e poi fare il massimo tracciamento con le misure, diciamo, collettive pubbliche. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite, suoruba.it.